Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 23. Questo è il lavoro dato all'umanità. È un fatto. Questo non viene da me, ma dall'alto. E ogni cosa che viene dall'alto è per il 100% buono. Le domande saranno sempre le stesse. La differenza sta nel delta. La differenza sta tra la tua condizione in cui hai questo momento e la risposta eterna, la condizione perfetta. Questa è la differenza da cui devi liberarti. La differenza tra la tua condizione attuale è la risposta perfetta. La risposta è luce e la domanda è mancanza. Quando hai una domanda, sappi che questo significa che hai una mancanza. Quando ricevi una risposta, sai di ricevere una scintilla di luce. Luce è mancanza o oscurità. Cos'è l'oscurità? L'oscurità è lì quando non hai potere e ti manca la conoscenza per gestire la situazione in modo corretto. Il riempimento per le mie domande si trova nelle risposte eterne, o in altre parole, la risposta è luce. E lo faccio per mezzo di Or Hoser, la luce riflettente. Ma prima devo costruire dentro di me la forza. E il delta è la differenza. Ho una domanda. È un delta. E io devo lavorare su questo per ottenere la risposta eterna. Lo stesso con la domanda 2 e delta 2. Devo lavorare con tutti e 5 i delta perché in ogni situazione ho questi 5. Naturalmente ci sono più domande possibili, ma queste sono le più importanti. In un certo senso sono l'essenza delle domande, delle tutte domande. Ti ho già detto che sei tu che devi dare una vera risposta. Tu sei il solo che deve costruire la forza per dare la risposta che viene dal tuo cuore e dalla tua anima. Devi svegliare queste risposte e devi accettarle. Quale sarà il risultato di tutto il lavoro interiore che fai? Il risultato è Massach, lo schermo. O forza la volontà, o in altre parole la forza anti-egoistica. Il Massach ha già in sostanza le cinque risposte. Lentamente ti abituerai a questo. Leggendo il manuale e leggendo l'insegnamento della Kabbalah, sentirai come funziona. La prima domanda eterna, Or Hozer, è la più debole. Significa che c'è solo il riflesso e non il ricevere. Funziona sempre in questo modo. La resistenza più debole è dire no, non ricevo. E questo già ti dà una ricompensa nell'avere la sensazione della luce del dare. Dare già ti dà la sensazione che sei vivo. Ma dare è solo una metà, mentre il desiderio del creatore è che tu dovresti ricevere, ma in un modo che sta dando. Ricevi per dare piacere. La prima domanda è solo il riflettere. In questa lezione ho chiesto agli studenti che erano presenti nella stanza di non parlare di un altro tanto quanto loro stanno facendo. È un'abitudine per aiutare gli altri. Quando un'altra persona non capisce, è così facile aiutarlo. Ma c'è il pericolo che si pensi di sapere più di un'altra persona. E siamo tutti studenti. Il tuo aiuto deve essere nell'aiutare un'altra persona a parlare riguardo il creatore Boré, con quello che è il soggetto, ma nessuna spiegazione. Potrebbe essere un lungo periodo di tempo in cui sei presente qui. E un'altra persona entra. Ogni persona ha le sue proprie correzioni e deve lavorare su se stesso. È bello aiutare un'altra persona, ma non qui. Qui nessuno è migliore o meno. Nel mondo materiale è possibile avere l'attitudine di insegnare, ma non qui. Qui stiamo lavorando con cose che sono molto sottili e raffinate. Non c'è avidità nello spirituale. Devi renderti ricevibile per il vero spirituale. È inumano ciò che stiamo facendo. E quindi fai il tuo proprio lavoro. Devi portare ogni cosa allo spirituale. Indaga da te stesso e conosci le risposte che puoi scoprire qui nella Kabbalah. La Kabbalah non è una religione. La Kabbalah non è questo o quello. La Kabbalah è Kabbalah. C'è così tanto parlare riguardo lo spirituale. Loro parlano riguardo lo spirituale. È ancora umano. Ma noi stiamo imparando le leggi dell'universo. E loro non sono ebrei o cristiani o altro. C'è solo Borè. Or. Il creatore è luce, è Cli, è l'essere umano. Quello che stiamo imparando non ha niente a che fare con le persone. Nessun ebreo o qualunque cosa possa essere. Conoscere il vero spirituale è aperto per tutti. Il creatore non fa alcuna differenza in chi o cosa lui vede. La parola spirituale viene usata in un modo così comune, ma sei tu che devi vedere per te stesso ciò che è spirituale e cosa no. Quando fai qualcosa e ti dà la sensazione di stare bene, piace al tuo corpo, non pensare che abbia qualcosa a che fare con lo spirituale. Quando lavori nel vero spirito spirituale e senti il tuo corpo protestare e dici: cosa stai facendo? Questo è stolto. Sappi che sei sulla strada giusta. Può essere che sei impegnato con lo spirituale. Quindi devi sapere che lo spirituale è contraddire con quel che uno di solito pensa che sia lo spirituale. Cerca il vero spirituale. Il vero spirituale è l'esperienza della sorgente di vita. E per questo devi fare il massimo sforzo. Dare e non ricevere. Sai che ti manca la forza di dare. Quando arrivi alla seconda domanda, hai un po' di forza. E sentirai la fusione, l'unità, l'unicità. Quando raggiungerai il vero spirituale, diventerà chiaro per te. Hai ricevuto Yihud. Cosa significa questo? Come conseguenza del lavoro interiore che fai per ottenere le risposte eterne, come risultato ricevi unità. Ricevi la sensazione di integrità considerando la situazione. Quando ti confronti nel modo giusto all'interno di ogni situazione come conseguenza, come conseguenza ricevi pienezza. unicità considerando le risposte eterne. Quando ti tieni occupato con la seconda fino alla quinta domanda, considerando le risposte eterne, l'unicità sarà il risultato. Considerando il tuo interiore e la luce, ciò che sta fuori da te è come luce, e questo è difficile da capire. Per te è importante sapere quando tu senti in ogni situazione. In ogni condizione una reazione, che questo proviene dall'alto. Ti è stato dato così, ora hai la possibilità di lavorare. Perciò diventa consapevole della reazione. La reazione può essere positiva o negativa, buona o cattiva. Sappi che è il tuo sentimento ciò che conta. Buono o cattivo è relativo. Riguarda tutta la tua reazione. Dare una reazione in maniera adeguata sulla seconda domanda. Più o meno non importa. E questo è difficile da capire perché siamo molto selettivi. Quando ci piace, lo accettiamo. Quando non ci piace, vogliamo ignorarlo. Questo è ciò che facciamo in questo mondo materiale. Facciamo le nostre scelte nello stesso modo in cui lo fa un bambino piccolo. La madre nutre il suo bambino con cibo sano, ma il bambino vuole dolci. Al bambino piacciono le caramelle o un biscotto. E facciamo lo stesso con lo spirituale. Ogni giorno sentiamo molti stimoli, ma cerchiamo solo le cose che ci piacciono. Perciò è molto importante per te che stai leggendo o ascoltando questo, perché lui o lei che si sta sforzando per l'integrità non deve essere molto selettivo. Non cercare ciò che ti piace. Non cercare il principe sul cavallo bianco che ti dice: tu sei buono. O qualcuno che ti sta dicendo sì in tutto quello che fai. Cerca le persone che sono complesse, perché il lavoro già giace nell'accettarle così come loro sono. Quando fai diversamente, ti coccoli, e questo non ha nulla a che fare con il vero lavoro spirituale. Non coccolare te stesso. Non avere nemmeno il desiderio perciò. Guardati intorno e vedi come sono i tuoi contatti con gli altri. È in un modo ipocrita. O vuoi essere il bravo ragazzo? Mai giocare al bravo ragazzo. Qualcuno può essere molto sgradevole ai tuoi occhi, ma forse lui prova a evidenziare qualcosa di esterno e ti senti infastidito. Ma in un certo senso sta dicendo la verità a te. Sii grato per avere queste persone intorno a te. E le ha il coraggio di dire qualcosa a te, ok, non ti piace, ma devi sempre saper provare gioia. Tutte le irritazioni provengono dal tuo esterno. E tu hai bisogno di loro per diventare forte, per costruire la resistenza, per sperimentare la vera realtà. Non è meraviglioso? Perciò, quando qualcuno ti sta irritando, non guardare a quello che sta dicendo. C'era un grande cabalista e uno ha cercato di farlo arrabbiare, ma non ha funzionato. Era insensibile per l'irritazione. Certo, può esserci un po' di irritazione. Supponiamo che inizia a piovere e che tu stai senza ombrello. Allora c'è irritazione, ma solo dall'esterno. Da dentro devi provare gioia. Ricorda le canzoni? Sto cantando sotto la pioggia. La persona interiore conosce sempre le risposte eterne. Qual è il significato delle quattro domande e quattro risposte? Il più e il meno. Perché quattro e non cinque? La prima domanda è solo la riflessione, ma le prossime quattro domande ci danno l'esperienza di unicità, di giustizia. Sto parlando di una vera azione, la giustificazione interiore, nel senso di sbarazzarsi dei cinque delta. Per arrivare a sbarazzarsi dello stimolo che prende posto in una situazione specifica. Non ho alcun interesse per lo stimolo. Nel mondo materiale parliamo di essere risoluto. Questo è essere risoluto nel giusto senso della parola. Non è l'intenzione che tu entri in resistenza, ma venire in un modo vero di essere risoluto. Tu sai, tutte queste domande e risposte eterne sono la soluzione interiore. Ma sai anche che devi lavorarci agendo in modo materiale. Ma l'essenza è l'aspetto interiore, la giustificazione interiore della situazione. Tu sei colui che dà lo sforzo. Riceve la forza di giustificare lo stimolo in quella specifica situazione. E non dicendo questo è buono, oppure mi ha colpito sulla guancia destra e ora le giro la guancia sinistra. C'è una comprensione più profonda all'interno di queste parole. Ma devi lavorarci sopra, devi fare il tuo lavoro interiore. Prendi la responsabilità nelle tue mani. È il primo passo che devi fare e poi vieni nell'infinito. Ogni situazione è legata sul tempo, qualunque sia la situazione. Vedi sempre il contesto eterno anche nella cosa più banale, senza fronzoli. Il contesto eterno è così importante per noi. Ogni volta che lo porti all'infinito, lavori con te stesso. Desiderio per lo spirituale, desiderare il vero spirituale, perché chi ha un desiderio profondo fa ogni cosa. Qualunque sia la situazione, vuole avere profitti. Esso è tutto riguardo la tua reazione, il modo in cui reagisci. Tutto è buono nel senso che non avevi un'altra opzione, quindi perché irritarti? Va bene, forse tu hai reagito in un modo stolto, ma c'era una voce dentro di te, diciamo, la voce di follia. E non puoi portarla all'eterno in maniera delle domande. Eterno significa quando dici io porto questa situazione o questa condizione nel modo in cui io la sperimento, la porto nel presente. Devi solo dire dentro oikilim. Solo dall'intero posso comprendere l'infinito. Non uscire fuori di te, questo non ha mai funzionato. E non funzionerà mai. L'unico posto dove puoi trovare il vero spirituale è dentro di te. La gente parla di filosofia. La filosofia ti salva? Lo chiamano spirituale, ma è ancora connesso con l'intelletto. È bello, ma è intellettuale. Sono intellettuali. Dicono, quello che non capisco non esiste. Questo è un approccio intellettuale e non spirituale. È lo stesso con la teologia. Bello, ma ha qualcosa a che fare con il vero spirituale? Parlano dello spirituale, ma tu devi sentire, sperimentare lo spirituale. Queste cinque domande devono essere dentro di te. Sentile dentro di te. Sei tu che devi avere la forza per giustificare una situazione. E questo può essere fatto solo attraverso le cinque risposte eterne. Portali in un contesto eterno. Qualunque cosa ti accada, questo è quello che devi fare. Puoi fare qualsiasi cosa. Qualunque possa essere la situazione, portalo in contatto con l'eterno. Non è meraviglioso? Puoi fare uso di ogni situazione per portarla in connessione con il Creatore, e questo è un bellissimo evento. Qualunque cosa accada, resterai in contatto con l'infinito. Ci sarà una connessione eterna con l'Eterno. Hai fatto il tuo lavoro, qualche cosa cercava di penetrarti e tu hai costruito in te stesso la forza di valutare la situazione. Renditi ricevibile per queste domande e riuniscile. Lasciale divenire una forza e portale in contatto con l'eternità. Qualunque possa essere la situazione, un funerale o un matrimonio, tu puoi stare nel presente, in serenità. Certamente, quando devi trattare una situazione di un funerale, c'è dolore. Siamo umani. Siamo esseri di carne e sangue. Ma non restarci troppo a lungo solo per un breve tempo. Il prima possibile. Connettiti con l'eternità, con l'unica forza creata. No, con l'unica forza creativa. E non creata. E lascia le emozioni per quello che sono. Le emozioni sono qualcosa, sono sopravvalutate. Facciamo uso di emozioni e questo è ancora molto infantile. Giustifica sempre l'unica forza creativa. Forse ti chiedi perché non posso confortare qualcuno. Sappi, tutto è spirituale. Dall'alto lui dà e lui prende. C'è posto per te per consolare un'altra persona? Quando pensi ancora così, pensi come un bambino. Stai ancora giocando. Non c'è dramma in questo mondo, qualunque cosa succede. Ricorda che non c'è e non ci sarà dramma in questo mondo. Il Creatore è uno. Vedi ogni cosa nel contesto con l'infinito. E puoi farlo dicendo: il Creatore è uno. Verrai e amerai il Creatore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutto il potere che hai dentro te. In ogni situazione, anche un funerale. Quando qualcuno muore, prova gioia. Provo gioia. Non prova, ma provo gioia. Senti un'immensa, immensa gioia. La gioia deve essere più di quando hai una situazione positiva. Senti la più grande gioia nella situazione più difficile. Senti di essere connesso con il Creatore in un modo che non hai mai provato prima. Il tuo amore deve essere per l'unica creazione di forza. No, per l'unica forza creativa. Creata è qualcosa che non è ha fatta così, ma creativa è attivo, è la forza attiva che crea. Questa è l'unica forza creativa. Lascia che il tuo amore sia con Borè. Chi è quello dopo a te? Questo è il tuo proprio amore. Senti la gioia in ogni situazione. È la gioia. È lì, quando sei in contatto con l'eternità, con le domande eterne e le risposte eterne, quando hai la vittoria sulla tua situazione. Cosa significa questo? Qualunque possa essere la situazione, Qualunque sia lo stimolo, non può più travolgerti. Hai fatto un ottimo lavoro da dentro. Hai costruito la forza interiore per sbarazzarti dei delta. E tu lo hai fatto giustificando la situazione. E come risultato hai ricevuto la connessione considerando la situazione. Ora sai che ogni cosa viene dal Creatore. Lui dà. E quando lui dà a te, tu ricevi luce. Questo è ciò che intendiamo quando diciamo che qualcuno ha ricevuto la luce per mezzo del Massah, tramite la forza del anti-egoistico. Tramite la sua forza di volontà. Solo quando hai fatto questo lavoro puoi ricevere la luce. Ti senti orribile e ti lasci ancora guidare dalla luce. Ora puoi trasformarlo nella gioia perché costruisci la forza dentro di te. Con queste risposte date a voi stessi, svegliate in voi la forza e in questo modo ricevete la connessione. E attraverso tutte queste connessioni sperimenti la luce. Qualunque sia la situazione, qualunque sia lo stimolo affrontato, fai il tuo lavoro dall'interno e riceverai la luce ora. Costruisci dentro di te la forza. Fallo a causa dell'eterna totalità. Perché il tuo desiderio di vivere è così grande. È perché tuo desiderio venire lì alla tua realizzazione. Perché ami la vita. Cerca dentro te stesso in ogni situazione e sappi che questo dà forza. Quando lavori su te stesso, ogni cosa sarà buona, perfetto per sempre. Qualunque cosa tu faccia, fallo in modo perfetto. Metti tutto nella prospettiva dell'Eterno e riceverai la luce in ogni situazione. Giustifica una situazione aumentando la forza. Fallo. E non perdere una cosa, coglie tutte le possibilità. So che il lavoro che fai è inumano. La Kabbalah è inumana secondo la norma umana. Vivi in questo mondo. Ma c'è sempre lavoro da fare in ogni situazione. C'è una situazione specifica. Le emozioni ti trascinano fuori, trascinano fuori, fuori da te. E tu hai ceduto, ma ora sai come rimanere in contatto con il tuo interiore. Solo dal tuo interiore puoi sentire il presente, l'eterno. Dall'esterno senti le emozioni e quando cedi, rimani come un bambino. È questo che vuoi? Sfrutta le cinque domande e le cinque risposte in ogni situazione. Quando vedi il contesto eterno, saprai che ogni situazione viene dall'alto. Qualunque cosa accada ha senso. Viene dall'alto e ha senso indipendentemente da quello che è. Non è dato a noi dare risposte. L'uomo ha sempre lavorato su se stesso. Ha lavorato alla sua realizzazione attraverso gli anni e attraverso i secoli. Uno ha lavorato su di sé e attraverso questo lavoro ha lavorato per l'intera comunità. Il lavoro per il tutto può essere fatto solo attraverso il lavoro individuale, mai tramite la massa. Tu ricevi luce dalla Kabbalah. Quello che leggi o ascolti è come ricevere luce. Nella misura che rifletti, puoi vedere il desiderio per la comprensione. Quello che fai. Quello che ricevi è la luce che passa attraverso la Kabbalah. Ogni situazione è adatta per le indagini. In ogni situazione si trova un salvataggio. Luce. Lavora con le cinque domande eterne. E le cinque risposte eterne. E mentre stai facendo questo, stai lavorando alla tua propria realizzazione. Vedi la figura 18. In ogni condizione abbiamo bisogno del potere della volontà, o Masach, per costruire la forza del presente. E questa forza proviene dalle corrispondenti risposte eterne. C'è una differenza tra le situazioni interiori di giustificazione, di risposte eterne, e l'esperienza della situazione stimolo presente. nel momento in cui sento la mancanza. Do risposte unite con il tempo. Quando sono in grado di cancellare la differenza, vengo a una nuova esperienza, ossia l'esperienza di unità con l'Eterno, considerando lo stimolo dall'esterno. Questo mi porta all'interno e naturalmente allo stesso tempo verso l'esterno. Vera pace e amore, considerando lo stimolo esterno. Qualunque cosa questo possa essere, questo mi rende libero e indipendente perché agisco da una coscienza profonda, ogni cosa che è fuori di me è buono e viene dall'alto. Ogni cosa che è fuori di me è l'unica forza unica forza creativa. Ele non cambia e le sue leggi dell'universo sono perfette. Il risultato è: io sperimento l'unità con tutta la forza del Boré disponibile nell'universo. È dentro di me perché esse sono in conformità l'uno con l'altro. Ma devo praticare e tramite la pratica io cresco e posso giustificare tutto quello che sta avvenendo a me. E non basta solo dire sì, io giustifico. Giustificare è dare una risposta vera con le cinque risposte eterne. Ho bisogno di costruire la forza dentro di me. Quindi devo usare ogni stimolo e non posso ignorarli. Solo in questo modo posso proseguire con il mio sviluppo spirituale e giungere alla perfetta condizione di integrità. E posso venire di persona al mio Gmar Tikkun, la correzione finale. E con questo personale Gmar Tikkun, l'intera umanità può venire al Gmar Tikkun generale.